Nella valle degli aranci, in mezzo agli amici tuoi. Non sono mai stato l'uomo che credevi riconoscere. Non sono mai stato il principe, nemmeno una pagina delle tue favole. Nell'acquario del nostro giardino ci sono squali e nemmeno un delfino. Una pizza in sol minore, una Coca-Cola senza bollicine. Avevamo un punto in comune, ma il tuo era un punto a capo, il mio era un punto grigio, come il nostro tempo mortificato. Eppure a prima vista sembravamo fatti l'uno per l'altro. Tu eri l'olio dei miei freni, io il filtro dei tuoi occhiali. Poi ben presto calò il sipario e ci mise davanti a uno specchio le nostre differenze ed ogni nostro difetto. Avevamo internet, ma non c'era mai connessione. Avevamo prati verdi, ma non c'era mai un fiore. Al cellulare non avevi campo e non avevi mai tempo. Né bosco né carezze, solo foglie secche al vento. Capricciosa senza acciughe, ordinavi al ristorante, ma io non ero un generale. Ho sempre amato la cena un po' piccante. Quando tu avevi luce, io ero nel buio più totale. Quando tu eri nel buio, io con te a sprofondare. Eppure a prima vista sembravamo fatti l'uno per l'altro. Tu eri l'olio dei miei freni, io il filtro dei tuoi occhiali. Poi ben presto calò il sipario e ci mise davanti a uno specchio le nostre differenze ed ogni nostro difetto. Dei galattici progetti finirono in un fosso con tutte le nostre chiavi ed ogni nostro chiodo fisso. Tra un toro e un capricorno ci scappa sempre un pesce a dividerti dal mondo, a spaccarti le ganasce. Non avevamo la stessa ora e mai lo stesso tempo. Io arrivavo sempre prima, tu sempre dopo un millennio. Ci sono costellazioni che sono talmente lontane che neanche con il binocolo le riesci a vedere. Prima vista sembravamo fatti l'uno per l'altro. Tu eri l'olio dei miei freni, io il filtro dei tuoi occhiali. Poi ben presto calò il sipario e ci mise davanti uno specchio le nostre differenze ed ogni nostro difetto.